Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo La misteriosa scomparsa di V di Stefano Benni con Nadia Ristori. Il giorno che io nacqui, un sole improvviso, meraviglioso, entrò dalla finestra della sala parto e illuminò la scena. Mia madre lanciò un trillo melodiosissimo da soprano e senza sofferenza alcuna mi sparò nell'aria come una palletta di cannone. Io feci una doppia capriola e ricaddi esattamente tra le braccia del primario, un uomo bellissimo, brizzolato, virile, non fumatore, e in quell'attimo miracolo! A tutti i presenti per la gioia ricrebbero i capelli, a chi non li aveva e si indorarono a chi li aveva. E una suora cresimina si spogliò della sua palandrana, rivelando un corpo stupendo, abbronzato, nato per l'amore, e un infermiere rozzo, vitorsoluto, sudato, peloso, la prese lì per terra con la dolcezza e il trasporto di un quindicenne. E miracolo! Tutti i malati si alzarono dai letti e invasero le corsie cantando, battendo il tempo con le stampelle o i gamboni di gesso, ognuno reggendo la sua flebo come un dono. E miracolo! I collassati si riebbero, i fratturati saldarono, i nefritici filtrarono, gli anemici rinsanguarono, i diabetici si amareggiarono e tutti fecero cerchio intorno per vedere me, la bambina più bella del mondo, io, V. E ci si inoculò morfina, si bevvero sciroppi e anche i più a lungo degenti si levarono dai capezzali secolari e le loro piaghe da decubito erano diventate splendidi tatuaggi di draghi e sirene. A casa, dissero, andiamo a casa perché abbiamo una casa, parenti, amore che ci aspetta. E il primario dei primari, vetusto, barbuto, occhi dardeggianti, uno Zeus, disse, ci dispiace che ve ne andiate, questo ospedale sarà vuoto senza di voi. E in quell'istante dalla sala operatoria venne un chirurgo alto, bruno, virile, non inquisito, e tra le mani sporche di sangue reggeva qualcosa di umido e rosso. Al suo fianco c'era l'operato che si teneva la pancia, così, ma era felice, non era affatto spaventato. E il chirurgo alzò in alto la cosa umida e gridò: guardate! Guardate cosa aveva in pancia il signore! Non era una metastasi, no! Era un triciclo rosso, per me. E io vi salì, avevo solo 10 minuti di vita, ma vi salì e partì, pedalando nel corridoio, tra le ali di degenti plaudenti, e dalle camere mi lanciavano chi cioccolatini, chi biscotti vecchi, chi libri o settimanali, e gridavano: non sappiamo più cosa farcene di queste cose, siamo guariti. E così uscii dall'ospedale, tra lo scampanio delle autoambulanze, fuori c'era una nebbia pesante, densa, soffocante, e un ingorgo di macchine che fumavano per il calore come rocce vulcaniche, e una canea di clacson e volti cerei, e dentro le macchine guidatori agonizzanti che morivano lentamente accelerando. E uno degli ingorgati, vedendomi rosea, neonata, sudata, col mio triciclo rosso che cercavo di passare avanti nella fila, mi mirò, aspettò, spalancò lo sportello dell'auto e bam! Mi centrò. Poi mi prese per il collo e disse: credi che la vita sia tutta rose e fiori, puttanella? Fu allora che persi la fiducia nel mondo. Io mi chiamo V, V semplice. Ma vedete, il mio è un caso oscuro, sia per la medicina tradizionale che per quella alternativa. Io sto perdendo l'uso dei cinque sensi. Ho improvvisi accecamenti, crisi di sordità, perdita di sensibilità tattile e papillare. Non riconosco più gli odori e questi fenomeni a volte mi prendono separatamente e a volte tutti insieme. Ho continue variazioni d'umore, cioè posso passare da un ottimismo sfrenato a un pessimismo abissale nell'arco di 4 battiti cardiaci. Posso passare da un'indifferenza artica per il mondo a una totale straziata compassione per qualsiasi forma di vita, animata e inanimata. Posso sentirmi sottilmente felice, mediamente inquieta, ilare, poi funebre, catatonica, poi iperattiva. Io ho fatto impazzire psicanalisti ed erboristi, primari e pranoterapisti, e non è servito a nulla, perché rimango un caso oscuro. E voi sapete di questi tempi, come li risolvono i casi? Vengono a prendervi, vi portano in un posto dove sostituiscono i pezzi. Ma io non voglio essere riparata, anche se alcuni dei miei pezzi sono proprio andati in pezzi. Io ho la cura segreta. Ecco, questo è il modello Calmadon 2000. Il Calmadon è un tranquillante, cioè in parole povere il metaidrossipropilel dorazepam. Per tutti i miei sintomi mi hanno dato un Calmadon alla bisogna. Di fatto sono arrivata a 20 Calmadon al giorno, cioè praticamente dovrei guarire con 4 suicidi al mese. È triste. Ma dovete sapere che c'è un vero perché per questo malessere, per questa malattia. Io ho perso V doppio, non un pezzo qualsiasi. Non stavo così quando l'avevo, ero diversa allora. Una volta io ero una persona equilibrata, non inquisita, non fumatrice, adattissima per l'audit e il sondaggio, docile e campionabile. Ma ora sono squilibrata. Come un'auto senza una gomma, un coniglio senza un orecchio, una V senza la sua metà. Vi faccio un esempio. Io ho un problema riguardo ai mendicanti. Ci sono dei giorni che c'è un bel sole e io, ottimista, esco passeggiando, rumbando sui miei bei tacchetti e li vedo, i mendicanti, con quei visi sofferti da gitano, da Samoiedo, quei bimbi liberi. A ognuno do uno o due monetine. Ai bimbi dico: da quale etnia provieni, carino? Però questi mendicanti, noto, mediamente inquieta, sono sempre di più. Almeno una volta davano delle prestazioni, suonavano. Invece adesso sono lì, seduti con quei cartelli scritti a mano. E allora io, che pure sono serena e ben disposta, passo e leggo: sono profigo, non ho magiare. E mi viene una: ma impara l'italiano, pezzente, che se io vengo al tuo paese a chiedere l'elemosina, poi per prima cosa imparo l'italiano, no? E il comune? Ma il comune, ma cosa fa per i mendicanti? Ma perché non gli fanno, ad esempio, dei bei cartelli scritti in buon italiano, magari a stampa, così la gente passa, legge, approva e non li brucia più? E i più odiosi, quelli che proprio non sopporto, sono quelli col bimbo che finge di dormire, o anche col cagnolino, col secchiello da elemosina in bocca. Ma vai a lavorare, te e il tuo cagnolino, a portare dei secchi di cemento, lo voglio vedere, altro che elemosine. Però, improvvisamente, vedo un cagnolino uguale agli altri, con lo stesso secchiello in bocca che mi guarda, con gli occhi bassi, vergognoso, come a dire: a me piacerebbe correre per i prati, andare a caccia, sai, ma non posso. Allora io: non puoi. E penso che mentre io cammino sazia e ben vestita, in ogni punto del mondo c'è una mamma con in braccio un bambino, con in braccio un cagnolino che imbocca un secchiello vuoto, senza una briciola di pane da mangiare, senza il soldino che né io, ma neanche voi. E tutti i problemi, i bambini e i secchielli si affollano nella mia testa e urlano, aiuta prima me, aiuto. E i miei problemi? Branco di stronzi! Visto che cambio umore, eh? Ho dei problemi grossi io, altro che i cagnolini. Volete l'esempio dei problemi che io ho in questo momento nella mia testa? Allora, A. In che paese vivo? Vale la pena viverci? È un paese vecchio o nuovo? B. Devo smettere col Calmadon? C. È possibile andare d'accordo con gli altri? Di la guerra è inevitabile? E come posso fare a meno di pensare a chi ha meno di me? F. Devo separare questi problemi o cercare di affrontarli tutti in una volta? Insomma, se vivessi in un altro paese, sapessi tirare le mine anticarro senza prendere tranquillanti, smettessi di pensare a quei maledetti bambini e cagnolini, mandassi gli altri a fanculo, avrei risolto tutti i miei problemi? lo so, sono i problemi che abbiamo tutti, specialmente il pensiero dei bambini. I bambini ruandesi. E voi, voi cosa fate per i bambini ruandesi, eh? Vi ho messo in difficoltà con questa domanda, vero? È un vecchio trucco giornalistico, vecchio, ma funziona sempre. Prima che l'altro apra bocca, lei cosa fa per i bambini del Ruanda? Io veramente, ma non so, ma perché lei cosa fa? Io non c'entro, l'ho chiesto a lei, proprio a me. Sono sfigata però, con tutta la gente che c'è qui. Senta, abbia pazienza però, io. E gli abbiamo mandato degli sci, sì, mi sembra che gli abbiamo mandato degli sci, ma no, forse quelli erano per i ciechi, ma che figura. Ho visto un telegiornale ieri. Ce li siamo, cambio umore. C'erano delle immagini. C'era un fiume di fango, un'alluvione. Nel fango la gente camminava, immersa fino alle ascelle, e trasportava così, in alto, sulla testa, tutte le sue povere cose. E tutto ciò che possedevano era meno di quello che io metto ogni giorno nella mia borsetta quando vado a passeggio. E pioveva. E la voce dello speaker era così accurata. E le immagini di così altissima qualità. E quei bambini che soffrono a rallenti. Così soffrono più a lungo quelli che li vedono in televisione, intendo. E di nuovo è tornata quell'insopportabile cosmica compassione. Era così intollerabile che per un attimo, mi vergogno solo a dirlo, ho pensato di cambiare canale. E sull'altro canale, c'era la storia di lei, un gran tocco di fica, bionda, ambigua, maniaca sessuale, e quella di lui, un bisteccone biondo americano non inquisito, con una mascella matrimoniale larga così, che fa il detective. La vicenda. Lei, la gran figa, è sospettata di avere commesso alcuni delitti a sfondo sessuale. Cioè va a letto con uno e nel momento dell'orgasmo, trac, lo pugnala con un merluzzo surgelato. Ma lui, il bisteccone, ha capito che lei, il gran tocco di figa, è l'assassina. E allora le tende una trappola, le stacca il freezer, niente merluzzo. Ma lei sa che lui le tende una trappola e ha due freezer. E poi ci sono delle schermaglie poliziesche ed erotiche. Lui si avvicina a lei e lei si ritrae. Poi lei si avvicina a lui, ma lui si ritrae. Poi trombano, poi si pugnalano, poi ritrombano, poi si ripugnalano, poi ritrombano, poi si ripugnalano, fino a quando lei gli spara. Io muoio. E alla fine si innamorarono. Perché ci si innamora sempre di chi ti ucciderà. Avevo da piccola 160 nonni, tra veri e immaginari, ma il mio preferito era nonno Vilfredo con la V doppia. Nonno Vilfredo. Io gli volevo bene e ogni 11 del mese lo accompagnavo a ritirare la pensione di invalidità, perché era quasi cieco. Aveva lavorato in fonderia all'arco voltaico. E io e il nonno ci mettevamo in fila all'ufficio postale, la mia manina nella sua manona. E poi lui ritirava la pensione e con i soldi mi comprava il gelato. Ma con il passare del tempo il prezzo del gelato cresceva spaventosamente. Esponenzialmente la pensione del nonno calava. Finché venne un mese, un orribile mese, in cui la pensione del nonno non fu più sufficiente a comperarmi il gelato. E per il dolore dell'accaduto e le 6 ore di fila, il nonno stramazzò al suolo. Ricordo, buttò giù un'intera fila di nonni, bam, bam, bam, bam, bam, e gli altri si rialzarono. Ma lui no. Lui morì tra le mie braccia. Da quella volta ho pensato che forse siamo tutti come vecchi nella fila della vita. Quei vecchi, come era il nonno, che ti stanno davanti alle poste per riscuotere poche lire di pensione. Sono lì, nella fila, curvi, impacciati, umiliati, e gli tremano le mani e non capiscono cosa dice il cassiere e sbagliano a firmare. E voi, che siete dietro nella fila, cominciate a sbuffare di compatimento. Poveretto, ma che brutta cosa che invecchiare. Ma è possibile che proprio non sappia fare una firma questo qui? Ma inchiodategli le mani. Vi guardate intorno, vergognandovi del vostro pensiero impietoso. Ma poi, scrutando nel volto delle persone che stanno dietro di voi, notate che tutti stanno guardando il vecchio con la stessa espressione di odio contenuto, e sbuffano e guardano in alto e fuori dalla finestra, verso chissà quali lontananze, verso chissà quali paesi lontani dove non esistono file con vecchi rincoglioniti. E voi sentite i loro pensieri gerontocidi nell'aria. Uno vorrebbe prendere il vecchio per il bavero e lanciarlo fuori dalla finestra. Un altro vorrebbe prendere la colla da pacchi e incollargli la dentiera. Un altro calpestarlo e passare avanti. Ma signori, per favore, un po' di compassione. Siamo tutti come vecchi nella fila della vita. Vecchi fastidiosi in coda, che sbarriamo il passo a qualcuno più forte di noi che vuole passare avanti. Ma possiamo anche scegliere di stare dalla parte di quelli più forti, di quelli che sbuffano e spingono, ma allora dovremo lottare ferocemente per il primo posto. Mentire. Guardi, signore, che c'ero prima io. No, guardi, quando lei è entrata, io l'ho vista entrare. No, ricordo bene che sono stato io a vedere entrare lei. No, io ero qui dalle 7 di mattina. Io ho passato la notte qui. E io ci sono nata qui. Sono nata in un ufficio postale. Va bene? Non si può andare d'accordo con tutti. Anzi, non si può andare d'accordo con nessuno. specialmente in questo paese dove circola più odio che se fossimo in guerra. E il vecchio e il nuovo, e il vecchio e il nuovo. È così complicata questa storia del vecchio e del nuovo, così sfuggente, così strana. Ma vecchio amico, di nuovo, ancora questi vecchi discorsi, ma scordiamoli e beviamoci insieme un buon bicchiere di buon vino vecchio in un posticino nuovo che ho trovato nella parte vecchia della città, dove hanno ristrutturato mantenendo i vecchi muri, ma intervenendo con spirito urbanistico nuovo, perciò per prima cosa hanno cacciato i vecchi inquilini. E dovreste vedere dentro queste case le vecchie travi così ben conservate vicino al nuovo stereo, con la vecchia musica anni 60 e la vecchia vasca di smalto con il nuovo idromassaggio. E il salotto neo-antico, dove la vecchia foto del giudice, ex salvatore della patria, è stata sostituita con una nuova foto del nuovo eroe, un vecchio noiosissimo stilista o un nuovo comico di regime. Vedrai il vecchio pavimento di mattone rosso lustrato a nuovo, dove zampettano quattro vecchi scarafaggi tipici, ridipinti, laccati come modellini d'auto d'epoca. E guarda lì un bonsai di 260 anni, sopra il nuovissimo computer. E ti presento il padrone di casa, un vecchio riciclatore d'armi, ora organizzatore di feste di beneficenza a favore di vecchi artisti colpiti da una terribile nuova malattia, e al suo fianco è la sua nuova amante, biondo grano, un tempo amante di un vecchio dirigente televisivo celebre per aver ideato una fortunata trasmissione di nuovi talenti. Poi, trombato allora, la giovane biondo grano l'ha mollato per un nuovo dirigente televisivo in auge perché portaborse del vecchio presidente. Ma poiché anche questo nuovo amante è stato sostituito per far posto a un vecchio biografo del nuovo presidente, allora biondo grano si è messa con il padrone della nuova casa, nel vecchio quartiere del nuovo paese, che sorge dalle rovine del vecchio regime. E la favola vecchia che ieri ti illuse, che oggi ci illude, oh Atteone, dimmi, dimmi carina, è nato prima l'uovo o l'uovo è nato prima? Il coniglietto Walter un bel giorno sposò una coniglia bianca che più bianca non si può, e misero alla luce, dopo un solo amplesso, mille conigliettini e li buttarono nel cesso. Là in fondo, Vu e la sua compagna di banco. Al solito, niente risatine e commentini, e piantatela di toccarvi, troiette. Troiette siamesi, così ci chiamavano, tanto eravamo unite. Eravamo come una persona sola, capite? Allo stesso banco per tanti anni, ci bastava uno sguardo per capirci. Avevamo gli stessi gusti, ci piacevano gli stessi vestiti, gli stessi libri, gli stessi ragazzi, anzi, è lo stesso ragazzo, Rino Porcino di Tino Nennasino. E poiché lei, Wilma, era più avvenente di me, una piccola gran figa lei, stava con Rino Porcino e aveva con lui un vero legame intimo e carnale, ma io non mi sentivo esclusa quando lei tornava e mi raccontava quello che aveva provato. Era come se lo provassi anch'io, e io la ascoltavo ore e ore. Perché? Perché lei sapeva farmi sognare. Mi diceva: tu ce la farai, perché sei unica, sei insignificante in modo del tutto particolare, tu hai delle grandi chance seduttive con quel fisico umanoide, hai questo corpicino cadaverico che suscita un turbamento mortuario da reliquia di santo. È vero che non hai seno, ma è meglio, visto che non hai neanche culo, ma non si può dire che tu sia magra, perché tutte le curve si sono radunate nel tuo naso. E allora se troverai un feticista rinofilo, ma tu lo farai impazzire, ti regalerà della lingerie per il naso e ti metterà le giarrettiere alle narici. rideva Wilma, rideva. Che amica buona, insuperabile. Lei mi faceva sentire unica. Poi la scuola finì e ci perdemmo di vista. Passò del tempo. Intanto io non mi feci una famiglia, non feci dei figli, non trovai lavoro. Ero insomma una donna irrealizzata, ma del tutto irrealizzata. Quando un giorno entro per caso in un ristorante elegante del centro e che ti vedo? Ancora bella, anche se un po' sintetizzata, rinsecchita, abbronzatissima, una prugna cotta con un vestito nero attillato e tacchi a spiedo. E seduto di fronte a lei un uomo di rara, squisita volgarità che fece un rumore con la bocca come quando muore un lavandino e prese il stecchino da denti, poiché aveva mangiato il paiar, ma non gli bastò. Allora si inserì in bocca il rabbio della forchetta e lo infilò in bocca, ma non bastò. Allora estrasse dalla tasca un coltello da sub e io urlai. Lei si voltò e mi disse: Carolina. Mi aveva riconosciuto dopo tanti anni. Aveva sbagliato il mio nome, ma mi aveva riconosciuto. E parlammo del più e del meno. E lei mi diceva: dobbiamo vederci. Ma sì, Bettozzi, il professore di matematica. Ma che bell'uomo che era. Chissà dov'è, è morto l'anno scorso. Ma no, ma sì, de che d'un colpo. Ma davvero? Ma allora, dobbiamo vederci. E io le dissi: non sei cambiata, sei sempre bella. E lei: ma anche tu, ma come sei elegante, veramente riconosco il tuo stile, che colori stupendi, nessuno che c'entra l'uno con l'altro. È una metafora dell'incomunicabilità, è quel ballerino arancione, è un salvagente da barca, e guarda lì, che scarpe basse, bianche, da reparto infettivi. Era sempre la stessa. Ma allora... Dobbiamo vederci. Anzi, ti presento il mio uomo, Paolone Nasone Manona nel Marrone. E lui: enchanté. Ma adesso che ci siamo rivisti, dobbiamo vederci. E non ci rivedemmo per 7 anni. Ma 7 anni dopo la rivedi. Non era più bella. Aveva il volto stanco, segnato. Mi raccontò di anni di sconfitte e delusioni, anni di giorni e notti al fianco di Paolone Nasone. E io la consolai. Era stata così buona con me. Come non ricambiare? Le dissi quanto era invecchiata. Ma le rughe ti stanno benissimo, sembri una cartina geografica. Forse puoi tentare un lifting, ma forse a quel punto è meglio una bitumatura. Le chiesi a quante atmosfere teneva le tette e lei si mise a piangere. E allora capii che la nostra amicizia era diventata totale, perfetta. Eravamo pari. Ci trovavamo tutti i giorni in un barrettino di vecchiettine che trascinavano al guinzaglio piccoli barboncini, alcuni vivi, altri morti da un mese. Ma non se n'erano accorte. E che cosa facevano? Lì le vecchiettine parlavano male degli altri. Tutto il giorno. Eravamo in grado di fare in 2 ore il bilancio fallimentare dell'esistenza di 50 persone. Eravamo bravissime, pensavamo che quel gioco poteva durare per sempre. Poi, un giorno, entrai da sola nel bar. Ha sentito di Wilma? Che brutto! Fine! 200 Calmadon! Roba da ammazzare 6 elefanti col guidatore annesso e magari anche l'alcol dietro, perché beveva pure. Ah, era bella, ma tanto insicura. Beh, bella una volta, ora non lo era più, sfiorita un bel po', E il suo ultimo uomo, poi, un bruto. Ma lei ha sempre avuto sfortuna in amore, poverina. Ma che poverina, ma se li andava a cercare? Sì, ho sempre pensato che finiva male. E quella sua amica del cuore? E quella V? Zitta, Kelly. Pare che Wilma le abbia telefonato che stava male, ma lei non è voluta andare. Per me non erano neanche amiche. Lesbiche, non ci avevo mai pensato, però adesso che mi ci fai pensare, certi atteggiamenti. Quella V, chissà come finirà, guardala. Uno di questi giorni la vengono a prendere. Ma cosa cerca? Ma cosa scava? Ma cosa cerca? Ma cosa scava? Ma cosa cerca? Ma cosa scava? Ma cosa cerca? Ma cosa scava? Ma cosa cerca? Ma cosa scava? Quando ero piccola e vivevo nel mio mondo di bambole e pipì, avevo un coniglio di nome Walter, Valterino Bianco. Due bei baffi, Valterino doppio V. Era bianco, neve e uovo. Ci volevo bene al mio coniglio pelosino, col musetto bianco spino. Cos'è quello? Non voglio bestie in casa al di fuori di me. Papone, cazzone, cattivone, peli sul pettone. Ma dai, caro, forse servirà a renderla meno introversa. Mammona, tettona, pelo nella pillittona. E allora, Niglio presi, giù da letto, corsi il doio, andai nella nottessa nera, fino alla legnaia, aia, nella carbonaia buia, cane, abbaia, qualcuno, uno, mio fratello, cazzello, pischello, si accorse che avevo il muso sporco, orco, nero per la carbonaia buia e disse... Io lo so dov'è nascosto il coniglio Walter e me lo piglio e io ti castro. Anche se non so che cosa vuole dire, io non sapea che fare. Povero Niglio in pericolo puro, innocente. Brutto fratello, cazzello, pischello, deficiente, mammona, tettona, pillittona, indifferente. Popone, cazzone, sai cosa faccio al disubbidiente? La nottessa sognatti. Un drago gallo col becco di ferro sputava fuoco da sotto le ali squamose e mi volava intorno a esse. Aveva due gran tette e viande d'amonche, petit dragonette. Ma quello sfiammò. Viande d'amonche, aiel belu mon père dragon. Ma ecco, mio fratello crudele, che pigliava il Niglio e lo dava al drago, che lo mangiava e lo sbranava e gridava aiuto e sanguinava. E mi svegliai, tutta sudata, invecchiata. E giù da letto corsi il doio. Ma il Niglio nella carbonaia buia non c'era più. Forse cotto era, morto in un letto di mirto. Allora scoprì che il piacere di alcuni è il dolore per altri. Il dolore di alcuni è il piacere di altri. E dolore e piacere sono spesso uniti. Ma chi ce l'ha sotto la coda sono i conigli e gli innocenti. Avevo solo 10 anni quando vidi esplodere la prima bomba delle numerose che mi toccarono e mi toccheranno in vita. In una piazza vicino a casa. Ricordo che ciò che mi colpì fu l'odore acre dell'esplosivo e l'immensa quantità di colonnelli e generali militari presenti. Questi medagliati erano circondati dalle loro scorte, uomini addestrati che scostavano la gente per far largo al loro generale, ma intanto altri uomini addestrati di una seconda scorta di altro medagliato scostavano la prima scorta e la piazza era piena di scorte che si scostavano l'una con l'altra, mentre i generali erano in mezzo, immobili, senza potersi muovere. Insomma, alla fine si riuscì a spingere tutti i generali intorno al cratere della bomba, finché giunse dal fondo un uomo vestito blu, che doveva essere il più importante di tutti, con una faccia seria, un mento da sadico, e disse: «Bel buco, eh?» Poi venne la televisione e, approfittando del fatto che tutti si radunavano nello stesso punto per venire inquadrati, io mi feci più avanti, proprio sull'orlo del cratere, e vidi sul fondo 10 o forse 12 cadaveri sghembi, storti come burattini rotti, e un uomo che spalava le macerie e mi sorrideva. Mi sembrò l'unico che avesse davvero qualcosa da fare lì, e mi fece cenno di sporgermi ancora, e così vidi che in fondo al cratere c'era una bambina morta che assomigliava a me, con un coniglio bianco tra le braccia, e anche il coniglio era morto, naturalmente. Oddio, mi vengono a prendere, poveri miei pezzi, state tutti assieme, che nessun pezzo si allontani. Ma è inutile che veniate a prendermi, sono guarita, ho capito, maggioranza. Io sono una sana esponente della maggioranza, di tutte le maggioranze del paese. Devo avere un padrone? Datemi un padrone. Buongiorno padrone, sono il suo servo, si lasci servire. A cosa serve avere un servo se non si lascia servire? Serve qualcosa? Ah, non è lei il padrone, ah, ce n'è uno nuovo, va benissimo. Buongiorno, signor nuovo padrone, cosa devo mettermi in testa? Una bandiera? Un crocefisso? Un'antenna televisiva? Dica, io eseguo, io sono buffa, la faccio ridere. Mi ritaglierò uno spazietto, ecco così, al centro, piccolo, più piccolo, più al centro, più piccolo, più piccolo, più al centro, e dal mio spazietto farò la voce grossa e ringherò. Ma soltanto con chi è più debole, naturalmente, solo con chi è più debole, naturalmente. Insomma, ditemi come devo essere. Volete che prenda più tranquillanti? Li prendo, li compro solo da voi. Volete che non veda? Ecco, sono cieca, non vedo più. Sparatoria, e quale sparatoria? E non ci sento neanche più. Insultate pure i miei amici. Sono sorda. Ecco che tocco terra. È il mio paese questo. È terra, è serba. È terra, è erba, è sangue, è merda. Non lo so, per me è lo stesso. Datemi da mangiare merda, sangue. Non sento né il gusto né l'odore, anche se dall'odore direi che è primavera. No, ho sbagliato, è inverno, è la stagione che volete voi, è inverno, ma non importa se è inverno, io so resistere al freddo, io so vivere in tutte le stagioni, dalle più miti alle più orribili, so vivere in strada, ho amici nascosti, se sarò buona, oh sì, sarò buona e disubbidiente, non posso essere altro. Sono solo una povera donna, con tutti i suoi pezzi, a posto. Bastardi. Un giorno avrò un figlio, una figlia. Mi somiglierà, nascerà come nacqui io. Un sole meraviglioso entrerà dalla finestra della sala parto e lei volerà in aria con una capriola, sorridendo. Dopo qualche tempo andai a trovarla. Lei viveva in un grande giardino. Era un'estate afosa, ma nel giardino c'era un lago d'ombra. E mentre ci camminavo dentro, i colori del mio vestito cambiavano. Camminai graffiandomi tra i rovi nell'erba alta, perché sembrava che da anni nessuno entrasse più in quel giardino. Lei era seduta sotto un albero e giocava con grande serietà. Aveva delle biglie di vetro che il sole attraversava e stava a gambe conserte come una divinità terribile e giocosa. Era un dio, senza altare e senza sacrifici. era un dio, perché non aveva ancora perso nulla, e se qualcosa perdeva, mille altre ne scopriva in un sol giorno. Io la guardai. Aveva lo stesso colore dei miei occhi, e i suoi gesti imitavano la mia poca saggezza, perché spesso, pur essendo lei una dea, si era fidata di me. Di me. Mi aveva ritenuta saggia. E forse io lo ero stata, per amor suo. Le dissi che ero felice di averla ritrovata e la strinsi tra le braccia. Ed era vera, era la signorina Wu, amica mia, madre mia, mia sorella, mia sposa. E tutte le perdite e i dolori non avevano prodotto su di lei una sola ruga. Non aveva perso nulla. Nessun vecchio o nuovo tiranno poteva portarle via la libertà, nessun fucile puntato, non avrei ascoltato i loro discorsi mai più, perché sentivo che per ogni cosa che perdevo un'altra ne entrava in me, come nei movimenti del respiro. Così mi sedetti a gambe conserte e mi misi a giocare con le biglie di vetro. E sentii delle voci fuori che mi chiamavano. Uscii e c'erano i miei amici. Tutti, non ne mancava nemmeno uno. Avevano le facce stanche, come se non avessero dormito per molti giorni. Camminammo tutta la notte in un fiume di fango, portando alta sopra la testa una valigia piccola con le poche cose che non volevamo abbandonare. Sentimmo sopra di noi il rumore degli aerei. Sentite, vengono a prenderci. Finché ci fermammo. Allora io portai da bere a tutti. Sei una bambina molto coraggiosa, mi dissero. Non avevo più paura, infatti. Mi sporsi sull'orlo del cratere e dissi: spero che non ci perderemo qui, ma ci rincontreremo ancora, ancora. Lo spettacolo La misteriosa scomparsa di V, di Stefano Benni, con Nadia Ristori. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. L'autrice, regista, attrice Chiara Bonome sullo spettacolo Le sfacciate meretrici, a Roma, al Teatro Vittoria, dall'8 al 13 giugno 2021. Chiara, ben trovata. Salve a voi, salve a tutti. Ci parli di questo progetto? Intanto già mi stanno facendo mille domande sul titolo, mi chiedono: ma da dove nasce questo titolo? Perché si intitola Le sfacciate meretrici? Sta già creando un po' di scompiglio, di provocazione. In realtà è successo questo, che durante la Repubblica Romana del 1849, che costrinse poi effettivamente Papa Pio IX alla fuga, travestito da semplice prete perché non si doveva far riconoscere, moltissime donne risposero all'appello di Cristina Trivulzio di Belgioioso alle donne romane per partecipare negli ospedali al soccorso dei feriti. E Papa Pio IX, una volta caduta la Repubblica Romana, in un'enciclica le chiamò sfacciate meretrici. Da qui il titolo provocatorio, perché chiaramente, nonostante molte di loro, essendo tutte donne di provenienza ed estrazione sociale differente, fossero anche effettivamente delle prostitute, però dimostrarono di avere lo stesso identico valore delle altre, ovviamente agli occhi del tempo. E quindi da qui questo progetto rispetto a queste figure incredibili, a queste storie incredibili di queste donne che, al pari dei loro colleghi e compagni uomini, hanno contribuito al Risorgimento italiano. Un titolo quindi che si basa su un documento storico. Assolutamente sì, è l'enciclica Nostis et Nobiscum di Pio IX. Che tipo di scelta hai fatto? Noi raccontiamo intanto sicuramente la storia di Cristina Trivulzio di Belgioioso, che ho nominato e che rispose a questa enciclica di Papa Pio IX,

bisogno di un tempo più lungo, no? Per crearsi in qualche modo. Quindi sicuramente è un debutto, ma uno, insomma, con la volontà poi di andare sempre avanti. Sì. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Francesca Farcomeni. Un abbraccio, grazie. In bocca al lupo e a risentirci, grazie. Presto. Grazie a voi, grazie mille. Buona giornata a tutti e tutte. Ciao, ciao, ciao. L'attrice Francesca Farcomeni sullo spettacolo Radio Ghetto, Voci Libere, a Roma, Parco Alessandrino, domenica 13 giugno 2021. Con Fabio Ciconte dell'Associazione Terra per presentare il suo libro Fragole d'inverno, perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta e il clima. Fabio, ben trovato. Ciao, ciao a tutti e a tutti. Partirei proprio dalla tua associazione, ce ne parli un po'? Terra è un'associazione ambientalista che in questi anni si è battuta e continua a battersi per la giustizia climatica e per quella sociale, come due elementi fortemente uniti e che vanno combattuti insieme. Penso al lavoro che abbiamo fatto in questi anni nella battaglia al caporalato, allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, alle distorsioni della grande distribuzione organizzata e infine sui cambiamenti climatici, in particolare rispetto al ruolo che il cibo, sistemi alimentari, l'agricoltura hanno nei confronti dei cambiamenti climatici. Cioè il cibo è da una parte vittima dei cambiamenti climatici perché è quello che ne subisce di più le conseguenze, se penso alle gelate, alle grandinate e via dicendo, ma è anche quello che ha più responsabilità in termini di emissioni di CO2. Il libro? Il libro è una conseguenza di questa riflessione, cioè a un certo punto quando l'IPCC, cioè il panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, cioè il gruppo di scienziati che studia da anni queste cose, ci dice a un certo punto che proprio l'agricoltura e i sistemi alimentari sono responsabili fino al 37% delle emissioni di CO2. Cioè noi eravamo abituati a pensare che i sistemi energetici, i trasporti, via dicendo, siano forse i maggiori responsabili. A un certo punto scopriamo che sono invece i sistemi agricoli, cioè il cibo che noi mangiamo. Da lì, appunto, insieme a Terra, con la casa editrice La Terza, insomma, ho fatto questa inchiesta sul campo durata mesi, che poi si è tradotta nel libro Fragole d'inverno, in cui racconto le luci e ombre del sistema alimentare, perché tu da una parte hai un sistema che è fatto appunto di tantissima carne, quindi allevamenti intensivi, hanno una responsabilità enorme in Italia e nel mondo, di una carne che noi mangiamo spesso a basso costo comprandola nei supermercati, e tutto questo ha un impatto enorme perché gli animali, soprattutto diciamo ovini e bovini, emettono un tantissimo metano sostanzialmente, che è un gas climatterante molto più potente da CO2. Dall'altra parte, per dare da mangiare a questi animali, in questi anni abbiamo deforestato 50 milioni di ettari di foresta solo negli ultimi 15 anni, quindi esacerbando l'effetto della crisi climatica. Ma non solo questo, no? Anche il modo in cui noi oggi ci nutriamo, cioè siamo abituati a pensare ad avere tutto il cibo che vogliamo quando lo vogliamo, fuori stagione, per cui abbiamo importazioni di frutta, verdura che vengono da tutte le parti del mondo, plastica a non finire, pesticidi a non finire. Tutto questo sistema di industrializzazione dell'agricoltura ha fatto sì che l'agricoltura diventasse uno dei maggiori responsabili dei cambiamenti climatici. Il paradosso di questa storia, che lo racconto in Fragole d'inverno, è che poi l'agricoltura è quella che ne subisce le conseguenze, perché tu oggi hai ogni giorno agricoltori che abbandonano la terra perché hanno avuto la gelata, la grandinata, la siccità. Se tu parli con gli agricoltori in Sicilia, quelli in Emilia Romagna, quelli in Belgio, per tutto ti diranno che è un disastro, no? E quindi Fragole d'inverno vuole raccontare esattamente questa schizofrenia di un sistema alimentare che è tutto basato sulla logica del profitto e della standardizzazione del prodotto, e sempre di meno sulla qualità e sempre di meno sulla valorizzazione del prezzo. Due domande che sono correlate. La prima è: in che proporzione causano questi problemi l'agricoltura e l'allevamento? In che proporzione tra loro? E poi chiaramente immagino che sia l'agricoltura legata all'allevamento. L'allevamento intensivo in quel 37% è il maggiore responsabile, quasi 2/3. Poi c'è anche per esempio lo spreco alimentare. Cioè, innanzitutto quello che noi buttiamo dal nostro frigorifero è figlio di queste strutture di cui vi parlavo prima. Poi, appunto, qui uno dovrebbe interrogare anche su che ruolo ha il singolo consumatore, quindi tutti noi quando sprechiamo cibo. In realtà la domanda giusta è quanto veniamo indotti a un iperconsumismo sfrenato che ci porta poi ad acquistare prodotti che non costano niente e quindi poi a buttarli con una certa leggerezza. Quali sarebbero le buone pratiche per rimediare? Pratiche esistono in Italia, cioè sono centinaia e centinaia. Io penso però che le buone pratiche deve metterle in piedi la politica, no? Mettendo degli impianti normativi che prediligano l'agricoltura sostenibile e amica del clima. Al momento questi impianti normativi non ce ne sono, anzi quelli che ci sono vanno in direzione contraria. Se tu prendi il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di Draghi, ti dice che sostanzialmente tu migliori gli allevamenti intensivi mettendoci sopra dei pannelli solari, capisci bene che insomma non c'è la percezione di quanto sia un problema, per cui io posso anche decidere di acquistare meno carne e devo farlo. Ma dall'altra parte, se la politica non diminuisce il numero dei capi allevati, se non interviene sulla desertificazione e sull'uso del suolo, se non interviene su pratiche che valorizzino le produzioni agricole, non avremo risolto niente. Deve essere chiaramente un intervento strutturale. Sì, assolutamente. Diciamo, credo poco al ruolo del consumatore, cioè sicuramente il consumatore ha un suo ruolo, ma questa retorica che tutto in mano, diciamo, la scelta del portafoglio, io francamente la considero giusta solo in parte, perché appunto poi è la politica che determina quello che succede nelle nostre vite. In chiusura ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più sul libro? Fragole d'inverno si trova nelle librerie grandi, piccole, in questo momento sono in difficoltà, quindi vanno sostenuto, su internet si trova. Poi sul sito di Terra ci sono altri approfondimenti, sul sito di Latep, insomma, penso possa essere, diciamo, uno strumento utile per capire cosa c'è dietro questa crisi climatica, che appunto è un'emergenza che dobbiamo sapere affrontare quanto prima. Libro Fragole d'inverno, perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta e il clima. Un saluto e un ringraziamento all'autore Fabio Ciconte. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti voi. Con Ferdinando Vaselli, direttore artistico della 10ª edizione del Festival Storie di Lavoro in provincia di Viterbo dal 3 al 12 giugno 2021. Ferdinando, ben trovato. Ben trovato a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Ci presenti questa creatura? Questa creatura è arrivata alla 10ª edizione e nasce dall'idea di voler portare il teatro laddove il teatro non arriva, in particolare nei luoghi di lavoro attivi. E quindi gli spettacoli nell'arco degli anni sono stati realizzati, spettacoli, concerti, eventi di vario tipo, nelle aziende, nei frantoi, nei parrucchieri, nelle falegnamerie, insomma hanno attraversato i luoghi, soprattutto dai luoghi di lavoro della provincia di Viterbo, per raccontare la storia dei luoghi in qualche modo attraverso la trasformazione che può dare un evento artistico, nello specifico un evento teatrale, anche se, come ripeto, abbiamo fatto nell'arco degli anni anche concerti e varie attività. Quest'anno, la 10ª edizione, che spero che abbia una seconda parte verso la fine dell'estate di quest'anno, si pone come obiettivo quello di cercare di creare nuove forme di comunità o comunque di riprendere il discorso dove era stato lasciato, e quindi abbiamo pensato di coinvolgere soprattutto le famiglie, gli attori locali e anche gli artisti in un evento che possa creare comunità attraverso 5 eventi. Il primo spettacolo verrà fatto il 3 di giugno e sarà un debutto nazionale della compagnia Locoteatro. Lo spettacolo si chiama Umani ed è rivolto ai ragazzi delle scuole elementari. Il 3 invece pomeriggio ci sarà sempre a Civita Castellana, l'esito del laboratorio Non c'è niente da ridere, che è un percorso online che abbiamo iniziato da marzo del 2020. 21. Ci sarà una settimana di pausa, si arriverà all'11 di giugno con lo spettacolo Saga Salsa della compagnia di Milano qui e ora. Lo faremo all'interno di un ristorante perché si tratta di una cena con uno spettacolo che verrà replicata il giorno dopo da Oriolo Romano in collaborazione con la Prologo, e chiuderemo con Ippolito Chiarello con uno spettacolo dal titolo Un cuore a pedali all'interno della passeggiata che organizzeremo il 12 sempre a Cinta Castellana. Umani è un lavoro particolare della compagnia di Loco, che è una compagnia composta prevalentemente da ragazzi, e dico ragazzi nel senso che sono degli artisti under 35, perché chi fa teatro sa, il mondo si divide in under 35 e over 35, però gli under 35 della compagnia hanno una lunga esperienza e quest'anno hanno maturato l'idea di voler lavorare attraverso l'utilizzo delle micro marionette composte fondamentalmente dalle dita e le videoproiezioni, cioè vengono create delle micro scenografie in cui la storia si svolge, parliamo di una storia pensata per i ragazzi, ma che può essere vista tranquillamente anche da persone adulte. Queste micro scenografie vengono proiettate su uno schermo. E questo è il primo lavoro che noi faremo all'interno dell'Istituto Suore Clarisse Francescane, che è un auditorium, una chiesa sconsacrata, tra l'altro molto bella, lì a Civita Castellana. Il pomeriggio invece c'è l'esito di un laboratorio di cui siamo molto orgogliosi, si chiama Non c'è niente da ridere, è nato dall'idea di raccontare temi pesanti appunto come il lavoro attraverso l'ironia e la comicità. Il laboratorio era condotto niente poco di meno anche da Claudio Morici, da Stefania Marrone, della Bottega degli Apocrifi di Manfredonia, e da Marco Di Stefano della Confraternita del Chianti, una compagnia che nasce dai drammaturghi coniugi Marco Di Stefano e Chiara Boscaro, e vengono dalla scuola della Paolo Grassi di Milano. Quindi loro tre hanno lavorato con dei corsisti e questi corsisti hanno prodotto un testo. Questo testo, che si chiama Civita Castellana 3 giugno 2021, racconterà la storia di 8 donne che si incrociano proprio lì a Civita Castellana l'8 giugno del 2021. I testi saranno letti da due attrici, Ilaria Giorgi e Claudia Bianchi, insieme a Riccardo Viola, che farà la voce narrante, e questo sarà il secondo evento che faremo appunto il 3 giugno. La settimana dopo avremo lo spettacolo della compagnia Qui e Ora dal titolo Saga Salsa, che è uno spettacolo che tra l'altro ha girato tantissimo nell'arco degli anni perché riesce a mettere insieme i territori, perché per esempio noi coinvolgiamo un ristorante locale, la Prologo, Oriolo Romano, che prepara la cena, quindi il pubblico mangerà, sarà servito dagli attori della stessa compagnia e contemporaneamente assisterà alla storia di queste tre donne che appartengono a tre generazioni di ristoratrici, e quindi assisteremo anche a un pezzo di storia d'Italia e ad alcuni drammi e anche momenti di gioia familiari. Quest'idea che il pubblico sia direttamente coinvolto nello spettacolo, nel processo creativo, è un po' una costante anche del nostro lavoro, proprio per cercare di coinvolgere di comunità, come facciamo ad esempio con lo spettacolo del 12, in cui abbiamo collaborato con un'associazione che si chiama Vidi Civita, che è un'associazione locale lì a Civita Castellana, ed organizzeremo una pedalata, una passeggiata in bicicletta, dove Ippolito Chiarello racconterà il suo spettacolo, quindi una biciclettata che attraverserà le strade del centro storico di Civita Castellana, poi terminerà all'interno tra l'altro di un'azienda, di una fabbrica, con lo spettacolo di Ippolito. Ippolito è il vincitore l'anno scorso del premio Euro con lo spettacolo Mattia il Nonno, fatto con la compagnia Factory, quindi un bravissimo attore che lavora con il teatro di narrazione, ma anche appunto col teatro ragazzi, e contemporaneamente un'esperienza, un modo per conoscere il territorio e la zona, un modo per stare insieme. Questo un po' forse è l'essenza del nostro percorso con la storia di lavoro. Ci lasci tutti i riferimenti web per i dettagli? Potete trovare maggiori informazioni sul sito 20chiaviteatro.it, la pagina Facebook di 20 Chiavi Teatro, 20 a numero, oppure potete mandare una mail a organizzazione20chiavi@gmail.com per prenotare gli spettacoli. Decima edizione del Festival Storie di Lavoro nella provincia di Viterbo dal 3 al 12 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Ferdinando Vaselli. Un in bocca al lupo e a presto! Grazie a voi, crepi, e a presto, e venite e fatevi un giro a Civita Castellana e a Torrello Romano. Ciao! Con Laura Sonnino, ideatrice della prima edizione di San Barte in Festival dal 4 al 27 giugno 2021. Ben trovata. Buongiorno, ben trovati a tutti e tutte. Ci racconti di quest'idea? Sì, l'idea nasce dall'incontro tra noi del Centro Popolare San Basilio, in particolar modo del Teatro Popolare San Basilio e il Teatro Igramul. Sono delle realtà che sono presenti nell'area est della Tiburtina, nel quarto municipio, tra San Basilio e San Cleto. Quindi noi siamo presenti a San Basilio e sono 4 anni, io e la mia collega Vania Muretto, che cerchiamo di portare l'arte, il teatro all'interno del quartiere. Abbiamo iniziato con i bambini e poi adesso abbiamo un laboratorio di teatro per adulti integrato. E abbiamo incontrato Vania Castelfranchi del Teatro Igramul. Lui invece è presente all'interno del quartiere, a un teatro a San Cleto, ormai da parecchi anni, credo dal 2004 se non mi sbaglio. Quindi ci siamo incontrati, dice ma perché non possiamo fare qualcosa insieme? E quindi a febbraio, insieme alla sua esperienza e alla sua rete come artista teatrale di commedia dell'arte in particolar modo, siamo riusciti ad organizzare una giornata di carnevale affacciati alla finestra Samba. Quindi da questo incontro è nata questa giornata in cui 12 realtà artistiche si sono riunite e hanno portato spettacoli, performance dal vivo direttamente sotto le finestre, comunque in piena pandemia in cui non c'era la possibilità di aggregazione, e quindi noi abbiamo creato questa cosa all'interno dei lotti del quartiere di San Basilio, chiedendo alle persone di affacciarsi alla finestra e godersi direttamente lo spettacolo. E i bambini, poi alcuni di loro hanno partecipato, sono scesi. C'è stata anche una partecipazione del Living Theater, quindi anche il Living Theater si è esibito insieme a noi durante questo evento di febbraio. E quindi da qui si è creata una rete di attivisti, di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, di professionisti, di attivisti anche comunque nell'ambito artistico e non solo. Noi come Centro Popolare San Basilio siamo attivi nel quartiere e abbiamo deciso di unire le forze e comunque creare un qualcosa che sia più stabile, un modello di fare teatro e cultura all'interno delle periferie. Quindi partiamo adesso con San Basilio, ma il nostro intento è quello comunque di portare questo modello un po' in tutte le periferie, perché Roma è periferia, non è il centro storico, è un po' come ritornare all'arte iniziale, no? L'arte di strada. La commedia dell'arte nasce in Italia, e quindi ritornare un po' alle origini di quello che è lo spettacolo, non creare più delle barriere tra il teatro di nicchia e il teatro popolare, ma il teatro della cultura deve essere aperto a tutti, non deve avere barriere, ma anzi deve creare dei ponti. E questa è la motivazione per cui noi stiamo portando questo festival e iniziamo proprio dai lotti di San Basilio. Come si articoleranno queste giornate? Saranno 4 giornate in cui ci saranno delle esibizioni di artisti professionali, quindi attori e attrici professionali, poi alcuni artisti di strada, musica dal vivo. Si è creata una rete anche tra le associazioni che lavorano e operano nel quartiere, per cui c'è per esempio un'associazione, una scuola di musica che è presente nel quartiere, che anche loro fornirà il loro contributo portando dei musicisti o anche degli allievi stessi a cui partecipano all'interno della scuola, che accompagneranno durante tutto l'evento. E ogni giornata quindi avranno queste esibizioni, queste performance dal vivo, e in contemporanea ci saranno 2 laboratori creativi che sono aperti a tutti, perché il nostro intento è proprio quello di creare una partecipazione attiva del territorio, ma non solo, ma di portare anche gente dall'esterno, in cui comunque la Borgata di San Basilio non sia conosciuta soltanto per quello che è la cronaca nera, perché è anche altro. E quindi il nostro intento è quello di portare la gente a San Basilio per fargli vedere che San Basilio è altro. Non c'è paura di entrare in una borgata, ma bensì di esserne fieri, di partecipare e di arricchirla di bellezza. e che ce n'è tanta di bellezza nel quartiere, soprattutto la bellezza sociale e umana, la solidarietà, no? L'evento sarà itinerante all'interno dei lotti, non sono delle postazioni fisse, quindi tutte le esibizioni saranno in itinere e ogni giornata si effettueranno 2 o 3 lotti, poi dipende, perché ci sono alcuni lotti che sono molto grandi e quindi magari nell'arco della stessa giornata si restringe in un unico lotto perché ha una densità e anche un'edificazione molto ampia. E più alla fine ci sarà un evento finale in cui si riuniranno tutte le persone che hanno partecipato ai laboratori e tutti gli artisti che hanno partecipato alle performance itineranti per una piccola festa tutti insieme all'interno del singolo lotto. Ci dai dei riferimenti internet per i dettagli? C'è un evento Facebook, Sambarte in Festival, lo potete trovare tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Centro Popolare San Basilio e comunque ci sarà anche un indirizzo email dove poter scrivere per poter aderire e partecipare ai laboratori che è sambarteinfestival@gmail.com. Prima edizione di Sambarte in Festival dal 4 al 27 giugno 2021, un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Laura Tonnino. Un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille Federico, grazie, viva il lupo, venite, venite tutti, vi aspettiamo. Con Giulio Baffi, uno dei coordinatori artistici del Festival Diffuso di Spettacoli Itineranti, Racconti per Ricominciare, dal 28 maggio al 6 giugno 2021. Giulio, ben trovato. Ben trovati voi, ben ritrovati noi tutti in nome del teatro che cerca di ricominciare. Non è cosa facile, ma ci siamo. Raccontiamo a chi ci ascolta le caratteristiche di questo festival. Riprendiamo praticamente il format che altre volte abbiamo percorso e che l'anno scorso ci ha reso particolarmente attenti e felici, che è quella di costruire una serie di postazioni teatrali in luoghi particolarmente belli, belli per storia, belli per architettura, belli per natura, proponendo in ognuno di questi posti, sono 12, ognuno di questi dei gruppi d'attori, 4 per ogni posto, raggruppati per tematiche ampie, per possibilità di incontro e di suggestione, a raccontare ognuno di loro, facendo teatro naturalmente, a raccontare una storia che in qualche modo si collega alla storia di quello che verrà dopo e di quello che verrà dopo, costruendo dei piccoli mosaici. 4 attori, ognuno per un quarto d'ora, per un numero contenuto di spettatori, una 30, distanziati, mascherati, secondo tutte le regole e le necessità del momento. Quindi un teatro in sicurezza, un teatro di sopravvivenza, ma un teatro di necessità. Necessità come sempre la suggestione teatrale, senza di cui tutto sommato patiamo molto e ne abbiamo patito durante quest'anno, non sono passate certamente le incursioni sue perché ci hanno ricordato che il teatro è molto più bello dal vivo. Come vi siete orientati per le scelte? Ripercorrono il format dello scorso anno e però sono state quest'anno più arricchite da un parlare con chi ci ospita, dall'ascoltare i desideri e le richieste, dall'avere delle offerte. Metti, per esempio, abbiamo avuto quest'anno e abbiamo costruito uno spazio apposta, un aggancio di desiderio dal Goethe Institute di Napoli. Il Goethe Institute di Napoli ci ha proposto di raccontare attraverso scritture di giovani che loro vogliono promuovere, aprire una finestra su una drammaturgia tedesca. Questa cosa ci è piaciuta, il Goethe Institute ci ha proposto dei testi. Questi testi sono stati tradotti ed elaborati in forma di rappresentazione e abbiamo costruito questa postazione che andremo naturalmente a verificare, e quindi pensiamo che piacerà molte. Oppure abbiamo costruito a Sorrento, su uno spazio particolarmente suggestivo, a Picco sul Mare, storie vagamente ispirate a situazioni che vedono il mare come protagoniste. A Villa Signorini, a Ercolano, abbiamo chiesto a Massimo Andrei di focalizzare le sue scritture, sempre quattro, sempre rapide, sull'idea della cucina. Il tema è il piatto in tavola, quattro brevi racconti di cucine del 1700, del 1800, del 1900, del futuro, quindi dell'oltre 2000. Così abbiamo costruito incontri curiosi in maniera tale che lo spettatore ne possa vedere una, due, tre, dieci, tutte quante. È quasi impossibile, ma molte si possono vedere in un tour teatrale ma anche geografico. Avrà cadenza quotidiana negli stessi orari? Avrà cadenza quotidiana negli stessi orari, con doppia rappresentazione alle 18 e alle 19:15, quindi adoperando tutte le suggestioni dell'imbrunire. È un festival che non adopera luci aggiunte, che non adopera amplificazioni, è un festival legato ai ritmi e ai cicli della natura e della giornata. Ti dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? Naturalmente, raccontami per ricominciare, il progetto è di Vesuvio Teatro, basta cliccare raccontami per ricominciare, percorsi di teatro dal vivo, e abbiamo tutte le informazioni necessarie. Già da tempo girano sul web dei vari raggruppamenti emotivi di Rimpettare un anno dopo, Pelle e Bestia dedicato ai bambini nell'orto botanico della Reggia, Barbari Residui, che è un'invenzione di Luciano Melchionna, testi della Jackson, a Villa Campolito di Ercolano, a Villa Favorita l'Uno Nessuno e 100.000, a Villa delle Ginestre, che è l'unico ritorno dell'anno scorso, che è stato particolarmente apprezzato e applaudito, quello delle Favorite e Favoriti, che stava l'anno scorso a Villa Campolito e quest'anno è alla Reggia del Quisisana, storie di regine e di favorite, e così via in tutte le altre postazioni che abbiamo individuato, di cui abbiamo avuto richiesta e disponibilità. Il Festival Diffuso di Spettacoli Itineranti, Racconti per Ricominciare, dal 28 maggio al 6 giugno 2021, un saluto e un ringraziamento ad uno dei coordinatori artistici, Giulio Bassi. Un in bocca al lupo e a presto! Crepi il lupo, a presto, venite a vedere i racconti e a ascoltare il Ricominciare. Giochiamo di parole e di emozioni. Siamo alla settimana teatrale romana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Dunque, una settimana teatrale che si sta in qualche modo, sia a Roma che in Italia, trasformando le stagioni teatrali pian piano nella stagione estiva, che verrà occupati per questi mesi, sicuramente luglio, insomma, e quindi dal dentro il teatro pian piano iniziamo a spostarci verso fuori. L'abbiamo già fatto un po' con il Teatro Torlonia, che ci ha offerto un po' di spettacoli, soprattutto di teatro per le nuove generazioni. Allora, per quanto riguarda questa settimana, invece, sicuramente continua la stagione estiva del Teatro Biblioteca Quarticciolo con Fuori, sempre più fuori, anzi, di quest'estate, che si coordina con la danza e il teatro, perché è anche poi l'occasione questa per vedere quali programma il festival di danza diretto da Valentina Merini. Per quanto riguarda appunto gli spettacoli di questa settimana, andiamo a vedere il 13 giugno al Parco Alessandrino Radio Ghetto, Voci Libere. Si tratta di un lavoro che cerca di mettere in scena l'esperienza della radio partecipata alla Radio Ghetto all'interno appunto dei ghetti dei braccianti agricoli nelle campagne del Foggiano. Lo spettacolo è interpretato da Francesca Farconelli, è diretto da Jack Spittle, Raffaele Urselli e Luca Lotano, ed è, sarà un viaggio sonoro, insomma saranno tracce audio che cercano di riflettere su capitalismo, migrazioni, sfruttamento e il caporalato, che insomma in questo periodo ha sempre maggiore necessità di essere discusso. Quindi le dico attenzione, perché sono anche temi molto molto cari ai nostri ascoltatori e a noi per primi. Per quanto riguarda poi fuori programma, continuerà poi appunto la prossima settimana con il debutto di Davide Varrosso, ma appunto ne parleremo la settimana prossima. Quindi l'unico appuntamento di questa settimana è appunto con Radio Ghetto il 13 giugno alle ore 20:30 al Parco Alessandrino. Per quanto riguarda il Teatro Vittoria, ce ne andremo a vedere Le Sfacciate Meretrici dall'8 al 13 di giugno con il testo e la messa in scena di Chiara Bonome, che appunto va all'interno di una storia risorgimentale per andare a pescare insomma una differenza notevole. La storia viene sempre raccontata, soprattutto quella italiana, al maschile, declinata al maschile, mentre invece accanto agli uomini straordinari di cui sono pieni i nostri libri di storia ci sono adeguatamente tante donne straordinarie che sono state un po' dimenticate dalla memoria storica, e invece appunto forse è proprio questa l'occasione per andare a rintracciare storie un po' dimenticate. Le Sfacciate Meretrici, con appunto il testo e la messa in scena di Chiara Bonome, ci saranno Virginia Bonacini, Valerio Camerini, Andrea Cappicici e Chiara David in scena sul palco del Teatro Vittoria dall'8 al 13 di giugno. Per quanto riguarda il teatro per le nuove generazioni, questa settimana il Teatro Torlonia inizia ad aprire la sua rassegna di spettacoli appunto dedicati a un pubblico più giovane, ma che vengono da compagnie solide importanti da tutta Italia. Questa è l'occasione per vedere Corri Daphne, tratto da Metamorfosi di Ovidio, dedicato ai ragazzi dagli 8 anni in su, la regia di Alberto Cacopardi, presentato da Factory, compagnia transadriatica, e Tessuto Corporeo. La consulenza artistica è quella di Tonio Diritto, ma in scena ci sarà l'autrice anche Ilaria Carlucci, ed è un lavoro appunto che cerca di entrare nella materia del mito per andare insomma a svelare delle atmosfere mitologiche appunto, in cui però rintracciare anche la linea di confine tra l'amore per l'altro e l'amore per sé. Questo è quello che il Corri Daphne, Ilaria Carlucci, cerca di mettere in campo. Lei è Daphne che nuota, salta, rotola, si arrampica, partecipa insomma della vita dei boschi. È un luogo però dove anche ci si innamora per la prima volta, e questo desiderio può accecare qualcuno. Apollo vacilla, Daphne si sente smarrita, sola, e questo è il rapporto tra appunto due miti. Lo vedremo in scena il 12 e il 13 giugno al Teatro Torlonia. Al Teatro di Roma, 11, 12, 13 giugno, andremo a vedere la kermesse sulla danza contemporanea negli spazi del Macro e dell'Istituto Svizzero, perché questa è la settimana in cui appunto potremo ammirare questo programma di giovani talenti internazionali curati da Michele Di Stefano. È la seconda edizione, si chiama Buffalo questa edizione, il corpo all'aperto. Ci saranno negli spazi del Macro e dell'Istituto Svizzero artisti come Yasmine Gournay, Daniele Albanese, Jerome Bell, Francesca Grilli, Cristina Cristal Rizzo, Industria Indipendente, Nicola Galli, insomma molti autori e coreografi della danza italiana e internazionale. Quindi da non perdere per chi ama la danza, 10-11 giugno all'Istituto Svizzero, 11-12-13 al Macro di Roma. Al Teatro Vascello in questa settimana andremo a vedere Soul Odyssey, con che sarà un concerto di rielaborazione su una base però chiaramente epica, quella dell'Odissea, appunto, e 11 e 12 giugno ci sarà un coro gospel che appunto cercherà di far rivivere l'atmosfera struggente, malinconica, coinvolgente del capolavoro di Omero. Per quanto riguarda il teatro di Roma, sicuramente questa è la settimana per andare a scoprire che lavoro sonoro, contest sonoro, Sonora Desert, il titolo, ha fatto il collettivo artistico Muta Imago dall'8 fino al 20 giugno, quindi da questa sera un viaggio immaginario, un'esperienza percettiva, una sorta di installazione, performance sonora, per andare all'interno di una dimensione liminale del sé, andando tra la memoria inconscia e le immagini archetipiche, fino appunto a dialogare con le musiche che sono state composte dal Vincorran esplicitamente per questo spettacolo. È un'indagine sul rapporto tra percezione e stati di coscienza che è ispirato al deserto di Sonora, uno dei più vasti d'America, a un viaggio nel deserto di Sonora che sta al confine tra l'Arizona ed il Messico. Quindi un viaggio a tutti gli effetti immaginifico all'interno di questo deserto, che un po' è il deserto appunto dell'Arizona e un po' è la nostra interiorità. Dall'8 al 20 giugno con Muta Imago al Teatro India. Al Teatro Argentina andremo invece a vedere uno spettacolo di Carmelo Rifici con la scrittura di Angela De Mattè, che si dedica al Macbeth, Le cose nascoste, l'opera shakespeariana viene riscritta da Angela De Mattè per andare all'interno del rito teatrale e rivisitare il passato come fonte di comprensione del presente e andare quindi a sviluppare un processo di rielaborazione del Macbeth in chiave psicoanalitica. È già in scena al Teatro Argentina, ma sarà in scena fino al 13 giugno questo spettacolo con la regia appunto di Carmelo Rifici, la scrittura di Angela De Mattè. Mi piace ricordare di Angela De Mattè, abbiamo ospitato a suo tempo, aveva un bel pallone rosso sulla vicenda umana e politica di Mara Kagol. Esattamente, me lo ricordo, spettacolo, testo che se non sbaglio vinse il premio Riccione un anno, che poi appunto fu messo in scena, insomma, un testo anche premiato. Ultima cosa di cui parlerei, ultime due, perdonami, è al Teatro Torlonia e anche continua anche ad andare avanti la stagione di sgombro del varietà del Teatro di Roma, del Teatro Comico dell'Underground Romano, che questa settimana, venerdì 11 giugno, porta in scena monologhi, canzoni, poesie, dialoghetti amorali di La vita è bella, Daniele Parisi e Ivan Talarico, con questo spettacolo tragicomico di chi si ostina a cercare una vita migliore ma nel posto sbagliato. Questo è quello che sarà l'11 giugno al Teatro Torlonia per Sgombro, mentre invece forse un po' il lavoro che questa settimana vorrei fosse seguito maggiormente è quello che arriva al Teatro India nell'arena esterna, e quindi qui il passaggio in qualche modo alla stagione estiva nell'arena esterna del Teatro India è l'occasione dal 10 al 20 giugno per andare a vedere l'Antigone di Sofocle diretta da Massimiliano Civica con attori straordinari come Oscar De Summa, Monica De Muro, Monica Piseddu, Francesco Rotelli e Marcello Sambati. Io lo vidi a Prato al debutto, al chiuso, sono molto curioso di vederlo appunto in uno spazio aperto, perché secondo me può prendere anche maggiore forza questo lavoro, ed è appunto un lavoro che cerca di rileggere Sofocle per interpretare proprio i fenomeni politici della nostra contemporaneità. Antigone è un testo che ha molto a che vedere con la politica, col senso della politica all'interno di una comunità e soprattutto sul rapporto tra identità del leader e il popolo che questo leader rappresenta. Questo è effettivamente un tema molto molto urgente, molto importante nella nostra contemporaneità, quindi da non perdere, 10-20 giugno, Antigone di Sofocle, Massimiliano Civica al Teatro India. E questo è tutto. Un abbraccio Simone! Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.